C'è una situazione buona, reggae reggae ogni minuto ogni ora. Culi cani mandri a zamu una mano tutta la serata, mai la sciamo. Sciamo mo sciamo, silenzi come pugna. Il suo stile balla mezza terme, rimana all'aria, flish da genti. E lì a me non stanno mai ferme, a buona vibrazione porto un cani mandri. E l'ubori e l'ulosca fanno dreamo alla danza. E un saluto, balli frati mia, che portano solo gioia e armonia. È difficile rassare tutti quanti i problemi, ma l'ubori e l'ulosca danno vibrazioni buone. Sta musica a camminare come una bici senza freni. La mezza terme alla capo oggi come ieri. Buoni capelli un ritmo si l'ha mappiato. Su un papu body che aiuto più bruciato. Un brucio che bruciano uno scantrala del sol. Stati mostrati che aiuti qua un mini bow. Alla mezza terme c'è una situazione buona. Reggae reggae ogni minuto ogni ora. Culi cani mandri a zamu una mano. Tutta la serata mai la spicciamo. Libera la capo e la sesta lì pensieri. No battaccia in capa tu ieri. Lo disco faccio gira non si ferma mai. Culo body lo scalina cry. La guagna non la guagna da capa sono a doia. Carro remesso a un mister bolina di zona. Facciamo una casina, muovo su guagnona. E alzate una mano e senti tu calore. Questo per il suono di la mezza terme. Buttate il buon senso qua dentro non serve. Il pezzo che mo senti suona rosso, giallo e verde. Mica mister Bori, col suono più potente. Sento lo seno di sta musica che viene lontana. Chi uno sente, chi uno sente, chi uno mezzica la ciana. Chi uno sente, chi uno sente, chi uno mezzica la rima. Questa canta l'ubori fino a che mattina. Invece un burulli cristiani che vanno tutti a ballare. Chiano chiano lu volume che mozzica e chianare. Lu casino tallaiate che mozzica a salire. Lu losca gira dischi e bulata a sentire. Alla mezza terme c'è una situazione buona. Reggae reggae ogni minuto ogni ora. Culi cani mandri a zamu una mano. Tutta la serata mai la spicciamo. Libera la capo e la sesta lì pensieri. No battaccia in capa tu ieri. Lu disco questo gira non si ferma mai. Culo bori lo scalpino a cry. Alla mezza terme c'è una situazione buona. Reggae reggae ogni minuto ogni ora. Culi cani mandri a zamu una mano. Tutta la serata mai la spicciamo. Libera la capo e la sesta lì pensieri. No battaccia in capa tu ieri. Lu disco questo gira non si ferma mai. Culo bori lo scalpino a cry. Libera la capo e la sesta lì pensieri. No battaccia in capa tu ieri. Lu disco questo gira non si ferma mai. Culo bori lo scalpino a cry.